Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Come è noto, i cosiddetti big data stanno generando attese nei settori più disparati. Parliamo di grandi masse di dati eterogenei, strutturati e non, dati raccolti da sensori, dalla rete, da altri database, dai quali con la necessaria potenza di calcolo e le opportune tecniche di indagine statistica è possibile ricavare nuova informazione, spesso non recuperabile con mezzi ordinari. Anche nel dominio della sanità vi è molta attesa rispetto alla possibilità di raccogliere dati multipli su comportamenti di vita, evoluzione della malattia, utilizzo di farmaci e così via, con cui poi nutrire modelli predittivi più robusti, migliori percorsi di cura e nuove capacità di diagnosi. Ma oltre a questo scenario ce n'è un altro. La macchina umana infatti è di per sé straordinariamente complessa e le tecniche dei big data applicate al suo studio potrebbero aprire una nuova frontiera della medicina, grazie a una disciplina nascente, la Network Physiology, che mescola competenze appunto di medicina, statistica e informatica. Ne parliamo con Gian Domenico Nollo, ricercatore dell'Università di Trento e responsabile dei programmi di ricerca nel settore della sanità appunto della provincia autonoma di Trento. Buonasera Nollo. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Dunque Nollo, allora intanto qual è questa frontiera poco esplorata che la Network Physiology permetterebbe di schiudere? Ci troviamo davanti allo sviluppo di un nuovo problema dato dalla capacità di osservare non più il singolo organo, ma l'insieme e le azioni che questi organi tra loro compiono per far funzionare la macchina umana. Fino ad oggi si è sempre studiato la malattia di un organo come un evento a sé stante. L'obiettivo della nuova medicina, della system medicine, sarà quello di vedere l'organo nel suo complesso, nelle sue interazioni. Beh, basta pensare a come sono strutturate le specializzazioni mediche e abbiamo il gastroenterologo, il cardiologo, sono costruite intorno all'organo o all'apparato, insomma. Sono costruite intorno all'organo, ma nel frattempo la medicina è evoluta, ma anche la malattia è evoluta. Non abbiamo più soggetti con una singola malattia magari nefasta. Oggi abbiamo malattie che evolvono in senso positivo, lasciano un paziente con una sua cronicità, una sorta di cicatrice, e poi ne arriva un'altra, poi un'altra. Allora questo anche per via dell'invecchiamento, no? Per via dell'invecchiamento che sta cambiando tutta l'epidemiologia generale. Allora oggi c'è bisogno di guardare l'insieme, in una visione che si chiama olistica da un certo punto di vista. E un po' orientale anche. Esatto, può diventare olistica anche in termini di ricerca e di fisiologia. Ecco, questo perché ci porta verso i big data? Perché nei big data troviamo gli strumenti per analizzare la complessità di dati che possono arrivare dal corpo umano. Per esempio, noi sappiamo benissimo che frequenza cardiaca e pressione sanguigna sono fra loro unite e correlate. Ma in molti casi, in molte patologie, non riusciamo a cogliere con precisione chi è che modula l'altro. La dilatazione cardiaca è una patologia tipica dove non si sa esattamente da dove comincino le cose. Da dove cominciano le cose. Chi è che ha dato il via a questa catena di eventi che poi sono stati negativi. Che tipo di indagini servono per portare avanti questo approccio? Allora, le indagini che servono partono dalla raccolta di dati che deve essere, multidimensionale. Dobbiamo prendere informazioni dal cuore, informazioni dall'attività respiratoria, informazioni dai reni, quindi grandi sensoristiche e grandi quantità di dati che vengono trasferite. Di recente avete pubblicato un primo risultato che è proprio figlio di questo approccio. Ce lo può raccontare brevemente, insomma? Lì stavamo lavorando su una delle patologie molto importanti, che è l'insonnia notturna, le patologie legate all'insonnia notturna. Che tra l'altro causano un numero impressionante di morti sulle strade ogni anno, quindi un problema grave. Bene, noi sappiamo che l'attività cerebrale, piuttosto che l'attività cardiaca, durante la notte hanno delle modifiche. Sappiamo che si rallenta il nostro battito cardiaco, sappiamo che abbiamo un metabolismo più basso. Sappiamo che cambiano le fasi REM e non REM, quindi le nostre fasi cerebrali in modo, durante il sonno. Bene, noi con questo studio abbiamo cominciato a spiegare come cuore e cervello comunicano durante il sonno. Poi da altri studi noi sappiamo che la mancanza di una fase REM, che è la caratteristica dell'insonnia di apnea notturna, può generare nel lungo periodo un'ipertensione. Bene, allora stiamo cominciando a circoscrivere il problema. perché da una patologia che sembrerebbe essere respiratoria abbiamo in realtà un'influenza cerebrale e abbiamo un risultato a lungo termine che è addirittura cardiovascolare. Lei capisce quindi che c'è una rete complessa che bisogna cominciare a districare. Per farlo si fanno delle polisonnografie. Cosa vuol dire? Cioè delle misurazioni durante il sonno di tutti questi parametri che le ho menzionato. Va bene, grazie Nollo. Grazie a lei e grazie a chi c'è stato ad ascoltare. Ci fermiamo qui, allora appuntamento a domani.